America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, l'escalation egiziana preoccupa Washington perché in questo momento ci si è resi conto che sono colpiti anche cittadini americani, giornalisti americani, sono stati messi in prigione per alcune ore, poi liberati. La corrispondente del Washington Post al Cairo, Leila Fadel, la fotografa del Washington Post, due giornalisti del New York Times. La situazione ovviamente preoccupa, ma non solo per la sorte dei cittadini americani, ma perché in questo arresto dei giornalisti c'è stato implicito un messaggio duro del presidente Hosni Mubarak a Washington. Si tratta, se volete, di un ultimo rilancio in un lungo negoziato diplomatico che finora si era svolto dietro le quinte. Attenzione, dice Mubarak, potrò cedere fino a un certo punto, oltre a quel punto ci sarà un prezzo e potete cominciare a rendervi conto di quanto elevato questo prezzo potrà essere, anche perché la città a questo punto sembra paralizzata anche dal punto di vista economico. Questo messaggio era già chiaro del resto il giorno prima, quando i sostenitori di Mubarak si erano gettati nella mischia per combattere i dimostranti anti-regime in piazza. Il presidente egiziano in sostanza credeva di aver raggiunto un accordo nel fine settimana per una transizione pacifica che avrebbe salvato il suo ruolo fino alle elezioni di settembre, quando poi ha capito che l'America non solo l'aveva abbandonato ma chiedeva tempi più rapidi per un cambiamento, ha reagito. Del resto, come ha rivelato lui stesso ieri in un'intervista con la rete ABC, qualche giorno fa, parlando con Barack Obama, aveva detto questo: non capisci la cultura egiziana né che cosa succederà se dovessi lasciare il potere. Poi l'escalation violenta fino a colpire, come vi dicevo, gli stessi americani. We also condemn in the strongest terms attacks on peaceful demonstrators, human rights activists, foreigners and diplomats. La risposta americana a questa evoluzione della crisi sul terreno è stata molto ferma. Il segretario di Stato Hillary Clinton ieri ha letto nel tardo pomeriggio una dichiarazione in cui si riafferma la posizione di Washington, auspicio per un cambiamento rapido, per un passaggio pacifico alla democrazia e il richiamo soprattutto a un ruolo responsabile del vicepresidente Omar Suleiman. Poco prima c'era stata anche una dichiarazione di Paige Crowley, il portavoce del Dipartimento di Stato, un ex militare che lavorò fra l'altro nella Casa Bianca di Clinton. Ebbene, Crowley ha detto questo, ha ripetuto così le parole di preoccupazione ai funzionari, abbiamo fatto appello al Ministero degli Esteri e così via, così via. Ma soprattutto ha detto questo: siamo inoltre in contatto con le forze armate egiziane, e un riferimento questo chiaro al rapporto privilegiato che gli Stati Uniti hanno con i militari egiziani, e chiaramente di nuovo un messaggio diplomatico o non troppo diplomatico per Hosni Mubarak. Battute contro battute dunque, in un braccio di ferro che ormai è passato dalla discrezione dei colloqui diplomatici dietro le quinte alla fin troppo pubblica piazza. Con questa nuova escalation le preoccupazioni per l'economia ritornano, la città in qualche modo era paralizzata e abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Federico Rampini, corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti. Federico, buongiorno. Condividi il fatto che, insomma, guardando in avanti, se le cose peggiorano ci sarà qualche preoccupazione per l'economia internazionale? Buongiorno, sì, condivido. Direi che finora la dimensione economica di questa crisi è stata la più sottovalutata. Prima di tutto sottovalutata nell'analisi delle cause originarie. Si è dimenticato che in fondo la primissima delle rivolte accadute in Algeria, poi quella tunisina, infine quella egiziana, sono state scatenate anzitutto dal forte rincaro dei beni alimentari, quindi l'onda lunga di quella inflazione mondiale delle commodities, delle materie prime, in particolare delle derrate agroalimentari, ha svolto un ruolo importante, ma all'interno di un contesto in cui l'economia egiziana era andata bene. Nel 2010 è stata un'economia che ha avuto un tasso di crescita superiore al 5% e, come si sa, dai tempi della rivoluzione francese fino a vicende più recenti, spesso i grandi sommovimenti sociali accadono non in un contesto di miseria assoluta ma quando le cose cominciano a cambiare, a muoversi. L'Egitto era un paese in movimento. Ecco, Federico, in questo contesto i mercati per ora, come dicevi tu stesso, hanno tenuto nervi saldi. Quale tipo di evoluzione secondo te potrebbe essere rassicurante? Il fatto che Mubarak accetti di accelerare davvero i tempi, il fatto che ritiri queste sue provocazioni? Ma io credo che i mercati puntano su due possibili scenari positivi. Uno è quello che sostanzialmente l'amministrazione Obama riesca a pilotare l'Egitto verso delle elezioni democratiche abbastanza rapidamente, al tempo stesso facendo emergere dei candidati liberali e non islamici come nuovi leader. E la seconda, secondo scenario che può rassicurare i mercati è quello che l'esercito tenga comunque sotto controllo la situazione, un esercito però in stretto contatto con Washington, un esercito cruciale soprattutto per garantire la stabilità del canale di Suez. Allora lì è lì che si tocca, diciamo, l'aspetto geoeconomico strategico dell'Egitto. Il canale di Suez fa transitare solo il 2,5% delle esportazioni mondiali di petrolio, si arriva al 4,5% se si aggiunge anche l'oleodotto Sumed, però invece è molto più importante per il passaggio di gas naturale. Ecco, le navi che attraversano il canale di Suez per trasportare gas naturale liquefatto, originario sia dell'Egitto sia di altri paesi, arrivano a un totale del 14% di tutte le forniture mondiali. Quindi un'ipotesi eventuale di chiusura del canale di Suez avrebbe costi molto elevati che andrebbero ad accentuare le tensioni inflazionistiche mondiali fino a prefigurare uno shock energetico sostanziale. E dunque si pone quello che è stato un po' il dilemma di Obama: stabilità o democrazia? Fino a che punto possiamo rischiare una democrazia che rischia di destabilizzare e fino a che punto abbiamo bisogno di stabilità? Tutte e due le cose sono necessarie: la democrazia perché corrisponde ai valori proclamati e in cui crede profondamente Obama, i valori del suo partito, del Partito Democratico. La sinistra non gli perdonerebbe di non essere fedele a questo. D'altra parte stabilità è fondamentale perché l'instabilità in Egitto, se significa avvento al potere degli islamici, può riaprire un conflitto in Medio Oriente, cioè sostanzialmente la guerra con Israele. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. L'Apollo Theater, celeberrimo a Harlem, ha annunciato che a giugno Stevie Wonder sarà introdotto nella Apollo Legends Hall of Fame. Wonder ha iniziato, come molti di voi ricorderanno, la sua carriera a 12 anni nel 1962 proprio sul palco dell'Apollo di Stevie Wonder, Superstitious. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.